Perfetto. Allora, comincio ad osservare gli appoggi di tutte le parti del corpo sul pavimento, partendo dai piedi e salendo fino alla testa. Quindi comincio ad osservare l'allineamento dei piedi, quale è più dritto, quale è più ruotato in fuori, quindi il discorso della gamba portante, che è quella che ha il piede più dritto, di quella invece più libera, che è la più in fuori, e poi l'appoggio del tallone, del polpaccio, della parte posteriore del ginocchio, della coscia e del bacino. A destra e a sinistra. Che parte del bacino senti più sollevata? Probabilmente, oltre a sentirti un po' inarcato con la parte lombare contratta, sentirai che c'è una delle due parti del bacino che sta più su verso il soffitto, più avanti. E se non riesci a capire bene qual è, prova a sollevare un attimo l'anca destra, l'anca sinistra, parte destra, sinistra del bacino, e osserva se riesci a capirlo. Ok, e adesso comincia ad osservare l'appoggio di tutte le vertebre partendo dal coccige e salendo fino alla testa. Quindi come appoggia il coccige, come è messo l'osso sacro, l'arco lombare, le vertebre toraciche e di conseguenza le costole, e a seconda di quanto è alto l'archetto dietro la parte lombare e la cintura, le costole basse toccano di più o di meno. E può essere che tocchi solo con la punta del coccige e tra le scapole e che il resto sia tutto un arco. E poi osserva come è messo il collo, come è messo il mento, la bocca, e infine le spalle, quale più avanti verso il soffitto, quale più indietro verso il pavimento, le braccia e le mani. E poi passa ad osservare il respiro. Innanzitutto, se stai respirando normalmente o sei un po' in apnea, e se respiri, come lo fai? Un respiro superficiale, profondo, sia con l'addome, col torace, con uno solo, con entrambi. E adesso metti le braccia aperte a croce, quindi palmo avanti verso il soffitto. No, no, aperte. Sì, togli il... Perfetto, palmo in avanti verso il soffitto e piega la gamba destra. Perfetto. E molto lentamente comincia a muovere il ginocchio destro verso sinistra. E ritorna. Ok, man mano che vai col ginocchio destro verso sinistra, porta il peso sul bordo interno del piede destro e pian piano torna. E continua molto lentamente Ok, e adesso man mano che vai verso sinistra, non solo andare a sinistra, ma muovi il ginocchio destro verso sinistra e verso il piede sinistro. Quindi come se ti prendessi per il ginocchio e ti tirassi in diagonale a sinistra e verso il piede sinistro. Quindi ti accorgerai che l'anca destra si solleva e il lato destro della schiena viene come allungato. E piano piano piano piano, fallo ancora più lentamente. Senza farlo con il colpo di sforzo nella parte lombare. Quindi è come se ti prendessi per il ginocchio molto lentamente, ti tirassi verso sinistra, verso il basso. E osserva come e se passa lungo la colonna vertebrale. E se passa lungo la colonna vertebrale, fin dove arriva? E quando torni, torna anche molto lentamente, appoggiando quasi 1 mm alla volta, quindi proprio un movimento molto lento, mettendo l'attenzione proprio a millimetro dopo millimetro. E osserva se stai muovendo anche la gamba sinistra, il piede sinistro, o se stanno fermi. Senza mai arrivare al limite. Quindi fermati prima di arrivare al punto nel quale senti eccessiva tensione, ma arriva fino al punto nel quale potresti andare ancora avanti. Quindi se fai da 0 a 100 come possibilità, fermati ad 80. Ok, fermati un attimo, allunga le gambe, le braccia. Osserva come sei appoggiato, come tieni le braccia, le mani. Se adesso, ogni volta che ti riposi, cambi un po' il modo di stare appoggiato a terra. E poi di nuovo piega ancora la gamba destra, metti le braccia aperte a croce con il palmo avanti verso il soffitto, sul prolungamento delle spalle e muovi lentamente il ginocchio destro in fuori, verso destra. E quindi ti accorgerai che ti appoggi sul bordo esterno del piede destro. E osserva se lasci la gamba sinistra libera di muoversi o se la tieni impuntellata, bloccandola nel movimento. accorgerai che se la lasci libera, l'anca sinistra si solleva un po' e il piede sinistro ruota leggermente indietro. Cosa che varia a seconda delle persone, ci sono persone che appena sollevano l'anca sotto il piede sinistro ruota indietro e persone che anche se l'anca sinistra si solleva, il piede sinistro ruota molto poco perché hanno molta più libertà nelle anche e quindi si può sollevare il bacino senza ruotare troppo subito la gamba. Respiro e fin dove arriva il movimento nella schiena. Ok, ti fermi, allunghi la gamba, le braccia, posi un attimo. Perfetto, rimetti le braccia aperte, palmo avanti. Ripieghi ancora la gamba destra e questa volta quando muovi il ginocchio destro indentro verso sinistra e il piede sinistro, come se io ti tirassi per il ginocchio, lasci che la testa ruoti a destra. E poi ritorni sia col ginocchio che con la testa. E osserva se puoi farne in modo che proprio la testa ruoti come conseguenza della torsione del bacino della colonna vertebrale o se lo fai solo perché te l'ho detto io. Quindi fai il movimento piano piano, non occorre che la testa ruoti moltissimo, diventa proprio quasi una conseguenza della torsione che parte dal ginocchio, bacino, schiena e arriva fino alla testa. E quando sei in torsione puoi rimanere fermo un po' in quella posizione, fare qualche respiro e poi tornare. Le gambe, le braccia. E osserva ogni volta che ti posi anche le differenze nello stare appoggiato a terra. E poi di nuovo apri le braccia, palmo verso il soffitto, gamba destra piegata. E muovi il ginocchio destro in fuori verso destra mentre la testa ruota a sinistra. e osserva come passa il movimento dal ginocchio fino alla testa. E quando dormi, ti fermi un attimo. Hai cambiato l'appoggio delle braccia. E poi di nuovo braccia aperte, palmo verso il soffitto, gamba destra piegata. E di nuovo muove il ginocchio destro verso sinistra e il piede sinistro, mentre la testa ruota destra, e poi di seguito il ginocchio destro verso destra sul bordo esterno e la testa ruota sinistra. Quindi unisci piano piano i due movimenti di prima molto lentamente. Se vuoi, puoi rimanere anche in torsione da una parte e dall'altra, fare qualche respiro. E poi ritornare. Sempre senza arrivare al massimo. Se la possibilità di ampiezza è di 100, fermati ad 80. Ok, quando ritorni allunga la gamba, le braccia e osserva se c'è qualche piccola differenza nel modo di appoggiare tra il lato destro e il lato sinistro. Riapri le braccia, palmo avanti verso il soffitto e piega la gamba a sinistra e comincia a muovere il ginocchio sinistro verso destra. E ritorna. E adesso quando vai a destra, muovi anche il ginocchio verso il piede a destra e piede destro. Osservando se stai respirando, come tieni la bocca, se il collo è morbido. Osserva cosa fa la gamba destra. Se si muove, se è ruota in fuori, se sta ferma. E come passa il movimento dal bacino lungo la colonna. E ti fermi e allunghi le braccia, le gambe. E adesso di nuovo apri le braccia, metti il panno verso il soffitto e piega la gamba sinistra. E lentamente comincia a muoverla col ginocchio sinistro in fuori verso il pavimento. Quindi ti muovi andando con il peso sul bordo esterno, che il piede sinistro, il bordo interno si solleva. E osserva cosa succede nella parte destra del bacino e cosa fa la gamba destra. Accorgerai che piano piano tende a ruotare indentro verso sinistra. E osserva sempre come tieni la bocca, come respiri. E ti fermi, allunghi la gamba e le braccia. Ok, riapri le braccia, palmo avanti, ripieghi la gamba a sinistra, muovi ancora il ginocchio sinistro in dentro verso destra, in basso verso il piede destro e contemporaneamente lasci che la testa concluda il movimento ruotando quel che viene naturale come conseguenza a sinistra, osservando come passa tutto questo movimento dal ginocchio al bacino, tutta la colonna vertebrale fino alla testa. E osserva se respiri e puoi rimanere in torsione, fermo, fare un respiro e poi lasciare andare. E riposa un po'. E di nuovo apri le braccia, palmo verso il soffitto, piega la gamba a sinistra. E adesso muovi il ginocchio a sinistro verso l'esterno, lasciando che come conseguenza del movimento in fuori la testa ruoti verso destra. Quindi osserva piano piano come passa tutto il movimento. Osserva come tieni la bocca, come respiri. Se il respiro arriva fino alle clavicole, alle costole alte. Riposa un po', allunga la gamba e le braccia. osserva l'appoggio a terra. E poi di nuovo apri le braccia, palmo in su verso il soffitto, avanti verso il soffitto, piega la gamba sinistra e di seguito muovi il ginocchio sinistro a destra verso il piede destro, lasciando che la testa come conseguenza concluda il movimento ruotando a sinistra e poi a sinistra verso il pavimento in fuori, lasciando che la testa concluda ruotando a destra. Evitando di forzare la parte lombare, ma proprio lasciando che venga allungata molto lentamente. Continua a respirare lentamente, rimanendo pure in torsione quando vuoi, facendo qualche respiro, poi tornando. Osserva come passa e come si muove la gamba destra ogni volta che vai da un lato all'altro, il bacino. Se torni molto lentamente cercando di appoggiare quasi un millimetro alla volta senza fare il colpo di maggior contrazione con la parte lombare, ma proprio lasciando che si allunghi. E poi ti fermi e allunghi le gambe e le braccia. Osserva il modo di stare stagliato a terra, i cambiamenti se ci sono. Ok, rimetti le braccia aperte, palmo avanti verso il soffitto e questa volta piega entrambe le gambe. Piedi e ginocchia, allarghi come il bacino e di seguito muovi le ginocchia a destra e a sinistra. Sempre con l'idea di allungare il secondo ginocchio verso la diagonale e il piede opposto. E osserva cosa fa la testa. Poi quando torni al centro ti fermi e ti riposi un po'. Ok. Riapri le braccia, palmo avanti al soffitto, ripiega entrambe le gambe, piedi larghi con il bacino, pure le ginocchia. Ora muovi entrambe le ginocchia a destra e rimani fermo con le gambe ruotate a destra. Ok, adesso tieni ferma e immobile la gamba a destra e lentamente muovi solo il ginocchio sinistro verso sinistra. La gamba destra sta sempre ferma. Quando senti che la gamba sinistra vorrebbe tirare il bacino e la gamba destra muoversi, torni indietro. Quindi la gamba destra è sempre perfettamente ferma e la gamba sinistra molto molto lentamente va verso destra e verso sinistra. E osserva piano piano cosa succede nella schiena e nel bacino. E osserva se respiri, come appoggia la colonna vertebrale, soprattutto nella parte lombare, nel torace. Allunga le gambe, riposati, le braccia anche se vuoi. E di nuovo braccia aperte, palma avanti, gambe piegate, larghe come il bacino, sia piedi che ginocchia, muovi le gambe verso sinistra, rimani fermo con le ginocchia verso sinistra e tenendo ferma e immobile la gamba sinistra, molto lentamente comincia a muovere il ginocchio e la gamba destra a destra fino al punto in cui il bacino e la gamba sinistra vorrebbero muoversi e a quel punto torni indietro. Osservando come passa il movimento nell'anca, nel bacino, nella schiena e osservando se continua a respirare e tenere la bocca morbida. ti fermi, quando sei al centro, unite gambe e braccia. Riapri le braccia, palma avanti verso il soffitto, piega ancora entrambe le gambe. Ed ora muovi entrambe le gambe verso destra e rimani fermo a destra. Dopodiché, come prima, tenendo ferma e immobile la gamba destra, muovi la gamba a sinistra, il ginocchio sinistro a sinistra. E questa volta, quando il ginocchio sinistro comincia a tirare il bacino, lascia che il bacino tiri anche la gamba destra, continua ad andare col ginocchio sinistro verso sinistra, finché alla fine il bacino tira e anche la gamba destra va a sinistra. E quando sei completamente a sinistra, rimani fermo in quella posizione un attimo, tieni ferma e immobile la gamba a sinistra, torni molto lentamente, solo col ginocchio e la gamba destra a destra, la gamba a sinistra sta ferma, il ginocchio destro piano piano piano piano tira il bacino, il quale piano piano piano piano piano piano tira la gamba a sinistra e poi continui ad andare a destra con la gamba destra e alla fine anche la sinistra arriva a destra. Quindi continui andare da una parte all'altra muovendo la seconda gamba solo quando il bacino la tira. E quindi ti accorgerai che quando sei supino dritto le gambe sono larghe come a rana. E osserva se respiri. E come porti il peso da un piede all'altro. E poi pian piano comincio a osservare se qualcosa passa e arriva fino alla testa o se la tieni ferma. E se passa, come lo muovi? E osserva come passa il movimento dal bacino, come passa la torsione lungo la colonna vertebrale, come si muovono le costole, il torace, il collo, la testa. Ok, ti fermi, ti riposi un po', muovi le gambe, le braccia. Osserva sempre gli appoggi per terra. E adesso facciamo la controprova per un attimo, apri le braccia, metti il pallone verso il soffitto, piega la gamba destra e può muoverla a destra e a sinistra. In dentro e in fuori, assecondando come prima, lasciando che il movimento passi in tutto il corpo e arrivi anche fino alla testa. Poi lascia andare, allunghi questa gamba e provi a farlo con l'altra. Sempre osservando come passa il movimento dal ginocchio, nel bacino, nella colonna vertebrale fino alla testa. Ok, ti fermi, allunghi le gambe, le braccia. Ed ora, prima di osservare il modo di stare appoggiato a terra, facciamo quello che altre volte abbiamo fatto, quindi piega le gambe, piede ginocchia alla larghezza del bacino, muovi il pube verso la testa, dopodiché stacchi il coccige, tutta il bacino e la colonna vertebrale, salendo verso il soffitto, fin dove puoi senza eccessivo sforzo e scendendo piano piano piano piano appoggiando una vertebra alla volta. Fai un'altra volta, facendo, sali e aspetta, quando sali muovi i talloni ben indietro, in modo che siano sotto la perpendicolare per scendere le ginocchia, così non forzi la schiena, sali molto lentamente anche nella salita, stacca una vertebra alla volta e osserva, ma lo stai già facendo, se quando sollevi il mento si avvicina alla gola. Fallo un'altra volta, però torna giù, muovi il pube verso di te, stacca il coccige e poi anche, no, stai giù, e anche nel fatto di salire, stacca una vertebra alla volta, anche quando vai su. Come srotoli una vertebra alla volta nella discesa, srotolala nella salita. osservare gli appoggi confrontandoli con quelli dell'inizio, quindi parti dalla posizione dei piedi, dei talloni, osserva come appoggiano i polpacci, la parte posteriore del ginocchio, della coscia. Come appoggia il bacino destra, sinistra. E poi come appoggia tutta quanta la colonna vertebrale partendo dal coccige e salendo fino alla testa. Quindi come è messo il coccige, l'osso sacro, com'è adesso l'arco lombare, come appoggiano le vertebre toraciche e le costole. Il collo, la testa. Come sono messe le spalle, le braccia. E poi quando sei pronto, lentamente ti siedi, puoi rimanere seduto un attimo, poi ti alzi.